2. Ascolta e ripeti. Mi vesto e usciamo. Puoi stare tu con la bambina mentre mi preparo? Basta non farsi prendere dalla fretta. Noi intanto ci guardiamo allo specchio.